Con piccole bugie costruite per sopravvivere, come le case fragili, a volte rifugi inutili, piccoli rimedi per delle cazzate futili. Ho detto tutto bene quando invece era tutt'altro, d'altronde me ne accorgo solo dopo che l'ho fatto. Sì, sono colpevole, ho falsificato un quadro, ma a volte lo richiede il caso. Ottimi artigiani lavorano la realtà, quando questa non gli piace e si fa dura. Capita che l'habitat manchi di libertà, quando l'abito che indosso è troppo su misura. Cosa dirti? Cosa dirti? Cosa dirti? Sì, sono colpevole. Cosa dirti? Cosa dirti? Cosa dirti? Sì, sono colpevole. Cosa dirti? Cosa dirti? Cosa dirti? Sì, sono colpevole. Cosa dirti? Cosa dirti? Cosa dirti? Sì, sono colpevole. Indole di chi si vuole arrendere, lamenta condizioni, non combatte per resistere, commenta situazioni senza viverle a prescindere. Il bene dal male bisogna scindere. Lord have mercy, abbi pietà di loro, fammi tessere amicizie con il filo del perdono. Ho scelto su me stesso, colpevole lo ammetto, se subisco scelte per amore e per rispetto. Ottimi artigiani lavorano la realtà, quando questa non gli piace e si fa dura. Capita che l'habitat manchi di libertà, quando l'abito che indosso è troppo su misura. Cosa dirti? Cosa dirti? Cosa dirti? Sì, sono colpevole. Cosa dirti? Cosa dirti? Cosa dirti? Sì, sono colpevole. Cosa dirti? Cosa dirti? Cosa dirti? Sì, sono colpevole. Cosa dirti? Cosa dirti? Cosa dirti? Sì, sono colpevole.